come tu alla sonno me lucida. T'amo perché sei donna e tanto bella, ma come questa strada non sei quella, quella che dà un profumo a casa mia. Forse mi aspetta ancora su quella via, forse mi chiama e di fiori le fiamme si adorna, sotto una luna sincera mi dice ritorna, lascia che sogni stasera e nel sogno ti chiami Lucia. Fa che io riviva soltanto un istante del mio primo amore. Più volte mi son detto, son lontano. Più volte ho canticchiato, piano piano. Le dolci melodie del mio paese, quel mare blu, oggi di più sento di amar. A nome forestiero questa via, e il nome tuo lo sonno del Lucia. T'amo perché sei donna e tanto bella, ma come questa strada non sei quella, quella che dà un profumo a casa mia. Forse mi aspetta ancora su quella via, forse mi chiama e di fiori le fiamme si adorna, sotto una luna sincera mi dice ritorna, lascia che sogni stasera e nel sogno ti chiami Lucia. Fa che io riviva soltanto un istante del mio primo amore.